Non è vero che il 144 non sia educativo, anzi in certi casi la dice più lunga e più veritiera di tanti libri di testo. Il 144 in questione è ovviamente da intendersi come prefisso telefonico, no? Quello messo sotto accusa da tantissimi, perché vere autentiche macchine per fregare soldi alla gente e per lo più fregarglieli con il vecchio sempiterno trucco dell'erotismo. Telefonami e sarò tua, e fra un vagito e un mugolio di godimento, fra un'oscenità e l'altra, la bolletta sale. Poi, più tardi, Sip e Mugolante vanno a cena e fanno questo a me, questo a te, alla faccia del poveretto che ci è cascato. Basta aprire il giornale con un po' d'occhio clinico per comprendere invece che anche lì c'è del buono. Apro il Corriere della Sera, per esempio, e prima o poi trovo il quadratino pubblicitario. In pratica, vabbè, dal punto di vista strettamente formale, questo quadratino minuscolo viene a sostituire quello che fu a un tempo del Callifugo Ciccarelli o la pubblicità degli adesivi per dentiere, no? Il formato è lo stesso, solo che qui al posto dell'omino sofferente c'è una bella fanciulla che l'aria sofferente non l'ha. Al 144.11 4333 all'ora apprendo che c'è sempre un'amica in linea, e vanno avanti attenti, e qui viene il punto educativo: c'è sempre un'amica in linea, cartomante o psicologa. Non una cartomante ed una psicologa, no, cartomante o psicologa, o l'una o l'altra, è indifferente quale delle due, indifferente. Finalmente qualcuno che sulla psicologia la pensa come me. È da 30 anni che lo dico, e nessuno fino ad ora mi aveva dato retta. Uno che per definizione si occupa del privato altrui, grosso modo, su quel privato ne sa e ne può sapere quanto chi interroga le stelle, i fondi nelle tazzine di caffè o la sfera di cristallo. Tolto il camice bianco, qualche droga legalizzata per ottenere degli effetti che a posteriori e soltanto a posteriori saranno sicuramente effetti voluti, beh, e tolta la laurea quando c'è, gli apparati metodologici di entrambi sono più o meno i medesimi. Condiscono via uno perché sia più soddisfatto di sé, non dia fastidio all'ordine socio-ideologico che vige in quel momento, e paghi profumatamente perché sia davvero convinto del valore di ciò che riceve. Ogni società ha i suoi produttori di parole salvifiche. Che poi ci siano gli autorizzati e i tollerati fa parte, se vogliamo, di quel liberismo mercantile di cui si parla tanto in questi dannatissimi giorni. L'annuncio sul Corriere giustamente unifica, ricompatta la categoria. Ben venga un po' di chiarezza. Meno chiaro è un altro quadratino pubblicitario del 144 apparso nel medesimo giornale. La donnina lì è soltanto disegnata e non impugna strumenti né di divinazione né di piacere, bensì un revolver. Roulette russa è il titolo dell'invito e il testo, per l'appunto, invita a raccogliere la sua sfida ad affrontare il rischio. Mi chiedo se abbiano trovato il sistema di ammazzare uno direttamente al telefono. Potenza dell'informatica e del virtuale riciclato in realtà pesante, potrebbero aver trovato il sistema di impallottolare l'orecchio del telefonista che raccoglie la sfida e che affronta il rischio, ma che al contempo è anche sfortunato. Cos'è? Sintomo ritardatario della crisi morale in cui versava la società opulenta? O una modesta proposta selettiva per i nostri giovani senza domani? Non lo so, e non pagherò le 2540 lire più IVA al minuto ad una società di Sydney, Australia, per saperlo. conto di morire ignorandolo, è già soddisfatto abbastanza per i miglioramenti riscontrati nella classificazione dei saperi. Piuttosto, debbo dire che, nonostante in Inghilterra si stia cercando di riabilitare anche legalmente il masochismo, qui, nell'annuncio sulla roulette russa, sinceramente, l'avviso che non si tratta di un servizio erotico, mi sembra davvero eccessivo. And now the purple dusk of twilight time steals across the meadows of my heart. High up in the sky, the little stars climb, always reminding me that we're apart. You wander down the lane and far away, leaving me a song that will not die. Love is now the stardust of yesterday, the music of the years gone by. Sometimes I wonder.